Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Questo è lo spettacolo Tutto quello che sto per dirvi è falso, contraffazione, mafie, filiera del dolore, con Tiziana Di Masi, testo di Andrea Guolo, regia di Maurizio Cardillo. Signore, signori, tutto quello che sto per dirvi è falso. Benvenuti! È sempre più difficile distinguere il bene dal male, il vero dal falso, l'autentico dal contraffatto. Ma ci sono degli strumenti indispensabili per orientarci in un mondo in cui l'inganno e l'imbroglio sono sempre dietro l'angolo. Un tempo eravamo un paese autentico, povero, ma vero, rassicurante, genuino. Gite picnic fuori porta, pizza la domenica sera, Mike buongiorno alla TV, biglietto della lotteria il 6 gennaio. Oggi passiamo le vacanze in coda al casello autostradale, bruciamo la cena seguendo le istruzioni dei tanti programmi di cucina. Il tempo libero lo passiamo ai videopoker e abbiamo rinunciato definitivamente a distinguere il vero dal falso. E il punto è che non ce ne importa più niente. Mangiamo senza guardare, beviamo senza annusare e poi finiamo per tracannare candeggina pensando che sia acqua. Succede perché facciamo le cose in automatico, senza pensarci. E succede perché siamo costretti a risparmiare. E invece non stiamo risparmiando, stiamo solo buttando via i nostri soldi. Compriamo i vestiti senza toccarli e poi d'estate con 40 gradi all'ombra indossiamo delle giacche che ci fanno sudare come in una sauna. D'inverno sotto la neve imbarchiamo acqua dentro le scarpe e ci vengono i piedi come due zamponi di Modena. Ci riempiamo la casa di spazzatura, convinti di aver fatto l'affare perché l'abbiamo pagata poco. E non solo non sappiamo che cosa farcene, ma non sappiamo nulla di quei prodotti. Da dove arrivano? Come sono stati realizzati? Che problemi ci possono creare? Oggi invece, in particolar modo oggi, certe domande dobbiamo farcele. E mica solo se le cose le compriamo sotto casa. I problemi maggiori spesso nascono da merce che arriva dall'estero, venduta per italiana. Già, l'estero. Se la tentazione di comprare qualcosa di dubbia provenienza fosse forte, ricordiamoci del piccolo Archie. Archie Lloyd Bennett. È un bambino inglese di Birmingham. Oggi è grande. Ma quando era piccolo, a soli 9 mesi, fece la cosa più normale che un bambino della sua età potesse fare. Si addormentò sul divano. Non poteva sapere lui, come la sua mamma Rebecca, che quel divano era stato trattato con un potente fungicida e si svegliò totalmente sfigurato. Come lui, come la sua mamma, altre 1.000 persone finirono intossicate, colpite da violente reazioni epidermiche e costrette a correre in ospedale. Ricordiamocelo, perché questo è successo acquistando quel divano in una rispettabilissima catena britannica che opera in regola. alla luce del sole. Il cui errore fu quello di mettere in vendita divani vecchi di un anno che erano stati trattati con una sostanza che impedisce la formazione delle muffe. Arrivavano dalla Cina e la catena Land of Leather ne pagò le conseguenze e dovette chiudere. Domandiamoci ora, se questo può succedere acquistando un prodotto nel circuito legale, che cosa potrebbe accadere se lo acquistassimo da chi non ci offre alcuna garanzia? Se anche non ce ne fregasse niente del Made in Italy, del lavoro che perdono i nostri artigiani, o dei soldi che fanno le mafie che gestiscono questi traffici, cerchiamo almeno di avere cura della nostra salute. Le analisi effettuate qualche anno fa a Milano su un paio di scarpe acquistate in un negozio cinese hanno riscontrato la presenza di 32,8 mg di cromo esavalente su chilo nel sottopiede, la parte a stretto contatto con la pelle. Il limite tollerato dalla legge? 3 mg. Il cromo esavalente è una sostanza tossico-nociva che non esiste in natura. Si forma se la pelle viene conciata male o con prodotti chimici di bassa qualità. Potenzialmente cancerogena. Se sta a contatto con la pelle, provoca dermatiti croniche. Si trova molto spesso nelle scarpe che arrivano dalla Cina. Pensate a quante volte d'estate noi indossiamo le scarpe senza calzini. Pensate al bambino che le avrebbe indossate. Chi controlla? Nessuno. I produttori italiani hanno delle responsabilità. Se emergono dei problemi li puoi inseguire, denunciare, magari ottenere un risarcimento. Ma in questi casi? A chi ti rivolgi? Ma dove li vai a cercare? Su quella scatola non c'era un indirizzo, un sito web, niente. Sono scattate le denunce. 5 indagati, 9.000 paia di scarpe sotto sequestro e avvio di azioni simili in altre 5 regioni italiane. E a proposito di scarpe, mio gentilissimo pubblico, io ho preparato per voi un divertente quiz socio-culturale che per essere effettuato ha bisogno di 2 concorrenti. Ed eccomi qui, vediamo un po'. Chi viene oggi? Allora, prego, vieni tu e vieni tu. Prego, ragazzi. Accomodatevi. Il tuo nome? Vito, prego, qui. E Arianna, di qua. Allora, Arianna, io ti faccio una domanda, tu hai 3 opzioni di risposta. Prima domanda. Qual è la prima cosa che tu fai quando compri una scarpa? Opzione numero 1. Guardare quanto è sexy quel commesso che ti sta servendo. Oppure guardare se il colore del tacco si abbina con il tuo nuovo rossetto. Terza possibilità, guardare se la scarpa è fatta bene per farti camminare bene. La terza. La terza? Vito, a te domando, qual è il luogo migliore dove acquistare un paio di scarpe? Prima possibilità, da un tuo amico contrabbandiere. Scusate, chi è che non ha un amico contrabbandiere? Oppure in un negozio autorizzato. Terza possibilità, fuori dalla moschea rubandole ai fedeli in preghiera. Sicuramente la seconda, mamma mia, come siete proprio rispettosi della legalità. Bene, però Arianna, Vito, ragazzi, la prima cosa da fare quando si acquista una scarpa è un'altra. Vito, vuoi essere così gentile da darmi per favore la tua scarpa? Arianna, la prima cosa da fare quando si acquista una scarpa è annusarla, prego! La prima cosa da fare è annusarla la scarpa, perché ad esempio la vera pelle ha un odore inconfondibile, sa di noce, di cuoio, di amaro. Però non vi fate imbrogliare se c'è scritto vera pelle e poi vera pelle non è. Però scusatemi, uno può anche comprare le scarpe che volutamente non siano di pelle, no? Ma allora, scusate ragazzi, che cos'è che andremo a valutare? La tracciabilità. Da dove arriva questa scarpa? Tu Arianna lo sai, tu Vito lo sai, voi tutti sapete con esattezza da dove arrivino le vostre scarpe? Perché lo sapete che il made in, il marchio di origine, non è obbligatorio, perché l'Europa lo considera un limite alla libera concorrenza. Poi capiremo meglio il perché in questa mattinata. E io però, prima di congedare Arianna, guarda un po' che regalino, ragazzi? Scarpe alte, comode, lucide, da gran serata. Allora, Arianna, queste meravigliose scarpe, io quanto le ho pagate? Ragazzi, queste scarpe costano 3 euro. E poi si dice che c'è la crisi quando si comprano queste meraviglie a soli 3 euro. Spaghetti, sugo di pomodoro, una bella grattugiata di parmigiano reggiano e un filo di olio buono. È per un piatto come questo che l'UNESCO ha decretato la nostra cucina, la dieta mediterranea, patrimonio mondiale dell'umanità. Di certo all'UNESCO pensavano alla pasta di Gragnano, al pomodoro San Marzano, all'olio extravergine degli ulivi monumentali del Salento, al parmigiano reggiano DOP. Chissà se avranno mai pensato alla pasta verde, al sugo Coco Pazzo, al parmesano brasiliano oppure all'olio lampante sofisticato. Il risultato è apparentemente lo stesso, il sapore no. Curarsi, apparire, vestirsi, muoversi, mangiare. Al Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano, con tutte le imitazioni e contraffazioni raccolte in giro per il mondo, hanno allestito un museo. Dentro c'è il Parmesan Perfect italiano, il Reggiano Made in Australia, il Parmo Greco, sì, il Parmigello, ma il capolavoro assoluto è lui, il Parmigiano Dairy Free, senza latte, pensato per il consumatore vegano. Pensate un po', un parmigiano senza latte. Ma i giochi di prestigio non finiscono qui. Pensate che c'è anche chi fa l'olio senza partire dalle olive. L'Italia è il secondo paese produttore al mondo di olio extravergine di oliva, ma anche il primo importatore. Perché? Vabbè, scopriamolo insieme. Ecco di nuovo il momento del quiz socio-culturale. E io di nuovo vengo tra voi a pescare altri 2 concorrenti. Allora, prego, vieni tu e vediamo chi mi ispira. Ma vieni tu! I vostri nomi, ragazzi? Francesco, prego. Ed ecco qui, invece il tuo nome? Francesco e Antonio, prego ragazzi. Allora, Antonio e Francesco, voi siete degli esperti degustatori di olio? No, bene. E allora è arrivato il momento di mettere alla prova la vostra fama di non intenditori. Allora, qui ci sono 2 bottigliette di olio apparentemente uguali, ma uno di questi 2 oli è più adatto a lubrificare la catena della bicicletta di Vito. L'altro invece è un olio di qualità. Ma procediamo alla prova degustazione. Bicchierino 1, bicchierino 2, attenzione a non versare l'olio, se no porta sfortuna. Procediamo alla prova. Allora, intanto prendiamo l'olio 1. Ragazzi, la prima cosa che valuteremo è il colore. Però sapete che gli esperti di olio mi dicono che il colore dell'olio è in verità l'elemento meno indicativo della sua qualità, perché talvolta l'opacità può essere proprio un fatto richiesto, voluto. Poi andiamo a versare il 2. Oltre al colore, ragazzi, iniziamo anche ad affinare l'olfatto. Voi direte, l'olio buono ha un buon odore, no? Quello cattivo, no? Non è così facile. Ci sono numerosi accorgimenti per fare in modo che anche l'olio, che non è buono, abbia invece un odore molto gradevole. E ora, miei cari, procedete alla prova degustazione. Prego, prima l'olio 1 e poi l'olio 2. Allora, ragazzi, io voglio informarvi che uno di questi due oli è stato acquistato in una nota catena di supermercati e deriva da una miscela di oli lampanti, cioè non adatti al consumo umano. Per qualcosa bisognerà pure morire, insomma, quante storie. L'altro invece, ragazzi, è un olio di qualità. Ma ora, bando alle ciance, ditemi qual è l'olio buono. L'uno o il due? L'uno. Per te? Il due. È con piacere, con gaudio e con somma mestizia che vi comunico che l'olio buono... Ma dov'è il rullo dei tamburi? E non c'è, fatelo voi, eh? È il numero... Ragazzi, come vi posso consolare che io qui ho solamente occhialini Rumban e magliette dolce banana. Vanno bene, no? Direi che in questo magazzino della contraffazione meglio non attingere. Allora, dicevamo poco fa, signori, che l'Italia è il secondo paese produttore al mondo di olio extravergine di oliva, ma anche il primo importatore. Perché? Semplicemente perché c'è chi acquista dell'olio di scarto, ad esempio l'olio 1, questo, spendendo mezzo euro al litro e lo trasforma miracolosamente in olio extravergine di oliva. Come diavolo fa? Con l'aiuto della chimica, eliminando qualsiasi puzza e acidità. Tutto falso. Il prezzo pagato agli agricoltori crolla del 30%, si svuotano le campagne, chiudono i frantoi e noi intanto condiamo l'insalata con beta carotene e clorofilla, le sostanze che truccano l'olio. Stanno distruggendo la nostra agricoltura, ci fanno perdere il controllo della nostra terra, creano ricchezza per loro e povertà per tutti noi. Chi sono? Sempre gli stessi, imprenditori disonesti e criminalità organizzata. Sono 50 i clan ufficialmente coinvolti nel business della contraffazione e delle frodi alimentari. L'Italia è al primo posto in Europa per segnalazioni di cibi irregolari. Latte romeno, decongelato, in polvere, per fare la mozzarella di bufala campana DOP. Carne di animali pompati con gli ormoni come se fossero palestrati. Pesce decongelato, venduto per fresco, allevato in chissà quali acque putride. E il caso dell'Italburro di Caserta, controllato dal clan Zagaria. Questi facevano il burro con scarti di animali, ossa, grasso. In più ci mettevano anche gli oli impiegati nella cosmesi. Un burro che rovinava il fegato di chiunque lo mangiasse. Ci guadagnano loro e ci perdiamo noi. Loro fanno un sacco di soldi rovinando la reputazione dei nostri prodotti. Noi ci perdiamo occupazione e l'unica certezza che avevamo, quella di essere il paese dove si mangia meglio. Ragazzi, ma avete notato che il pomodoro sulla pizza non ha sapore? L'olio, persino in posti di produzione tipica al ristorante, puzza, che non lo puoi annusare. Non siamo più quello che mangiamo. Ci possiamo difendere? Sì, soltanto in un modo, leggendo attentamente le etichette, che dicono moltissimo, soprattutto quando non dicono niente. La tracciabilità va imposta dal basso e noi lo possiamo fare, premiando chi ce la offre. E poi ragazzi, dobbiamo chiedere, dobbiamo abituarci a domandare, a fare domande a chi ci vende i prodotti. Sì, anche a costo di passare per dei fastidiosi rompiballe. Chiediamo all'oste, chi ti vende la carne e l'olio? Qual è il pomodoro che mi hai messo su questa pizza? Cioè, capite che più gli facciamo delle domande, più sarà costretto a pensarci bene prima di raccontarci delle bugie. Dissenteria. Un po' ne ho avuto 2 mesi fa, sarà grave. Provvediamo subito. Nel carrello ci metto una bella dose di streptomagma, che se il nome suona come l'effetto, la prossima volta dovrai sistemarmi nel giro di un quarto d'ora. Se le passo tutte. Difterite. Ma cosa significa? Wikipedia è il mistero risolto. Ecco qua. Malattia ormai rarissima nei paesi sviluppati, che si manifesta con membrane in sede faringea. Ecco cos'era quell'abbassamento di voce che mi ha preso a pasquetta. Difterite conclamata. Terapia d'urto a base di antibiotici. Confezione Magnum da 44 pillole nel carrello. Fatto. Mamma, ma quante ce ne sono ancora? Eccone un'altra. Discromia. Colorazione anomala dell'epidermide. Ah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sono piena di macchie nere. La cura del dermatologo non è servita a niente. Crema cortisonica a rapido effetto. La pelle torna bianca entro 2 giorni. Offerta speciale, paghi 2, compra 10. Ah, che affare. Ah, facciamo che ne compro subito 100, che ne ho bisogno. Now that you have selected a product, please choose the desired dosage and quantity and click carrello, on the add to cart. Aggiungi articolo, procediamo. Eccone un'altra. E siamo soltanto alla T. Disfunzione erettile. Ah, questa io non posso averla. Ma secondo me ce l'ha il mio fidanzato. Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo. Questo invece ce l'ho io. Si tratta dell'insufficienza, della completa assenza di fantasie sessuali e di desiderio. Curabile. Per mezzo di piccole dosi di testosterone liberate da un cerotto transdermico. Compriamo subito 320 cerotti e attacchiamoceli ovunque per una settimana. Sconto 80%, euro 400 e abbiamo risolto il problema. Sempre che lui si curi la disfunzione erettile. Ho finito? Ma che? Assolutamente no. Demenza senile. Ci può già stare. Dopo i 30 tutto è possibile. Qui però la dà probabile dopo i 65. Vabbè, sono sempre stata precoce in tutto. A 12 anni sapevo già quasi tutte le lettere dell'alfabeto. Leggiamo un po'. Colpisce con maggiore frequenza le donne. E si manifesta inizialmente con deficit della memoria e alterazioni del comportamento. Seguono una compromissione più marcata delle facoltà intellettive e rare allucinazioni. Ma non sarà mica come quando mi sono fumato una canna ad Amsterdam. In 4 anni si giunge allo sfacelo totale. Oddio mio, devo fare qualcosa subito. Ecco il rimedio. Donne pezzili in dosi bibliche e galantamina a chili tagliata spessa come una bistecca. Ottimo, carrello, chiudo l'ordine. Per oggi può bastare. Domani facciamo la E. Pagamento con carta di credito, codice CVV e mi arriva tutto a casa fra 5 giorni. Sempre che io ci arrivi tra 5 giorni. Perché sono sicura di stare davvero male. Il mio medico non mi crede. Ma da lui io non vado più. Mi curo da sola. Ormai c'è internet. Si chiama farmacia online. Ed è come Maometto con la montagna. Se tu non vai da lei, lei viene da te. Prendiamo il caso di Alex Poliaco. Dietro il nome di questo fantomatico dottore si celava un'organizzazione criminale che più che a curarti puntava a svuotarti la carta di credito. Gestiva vendita di pornografia infantile, riciclaggio di denaro sporco, truffe. Ti proponeva Viagra o Cialis con un risparmio dichiarato dell'85%. Poi però ti addebitava l'acquisto di un catamarano in Kenya. Ma fosse solo questo. Il problema iniziava quando il farmaco arrivava davvero. È stato calcolato che solo un medicinale su 10 di quelli acquistati nei canali illegali possiede davvero al suo interno il principio attivo indicato nella confezione. Nel 25% dei casi non ce n'è traccia e nel 9% dei casi in quei farmaci trovate delle sostanze estranee come polvere di gesso, cemento, veleno per topi. E voi assumereste per via orale una pasticca che contiene al suo interno veleno per topi. Beh, sappiate comunque che questa è una probabilità abbastanza rara, perché nella lista dei prodotti più contraffatti i farmaci sono al penultimo posto. In testa chi c'è? Articoli in pelle, borse, giochi e giocattoli, abbigliamento a maglia, calzature, insomma tutte cose che tocchiamo, tutta roba che ci mettiamo addosso, i giocattoli che toccano i nostri bambini. Ecco, e voi vi mettereste addosso qualcosa che contiene al suo interno dei veleni. Sappiate che tutto questo gira anche online ed è incontrollabile per chiunque, anche per Amazon, che ha ammesso: potremmo non essere in grado di prevenire la vendita di prodotti falsi o contraffatti sul nostro store o tramite store terzi. Questi beni potrebbero essere venduti in maniera illegale o non etica. Ragazzi, ma allora scusate, come ci difendiamo? 5 regole che ho scritto qui sul mio taccuino nero e che vi prego di stampare nella memoria. Regola numero 1. Cercate di capire con esattezza chi sia il venditore. Se non trovate una società precisa con uno stato di appartenenza, non comprate. Regola numero 2. Se le quantità offerte non sono limitate, significa che dietro c'è un'organizzazione. E state sicuri che una volta che avete pagato, non la troverete più. Regola numero 3. Se il numero di riferimento che compare nell'offerta è di un cellulare, lasciate stare, perché le aziende serie di riferimento hanno una sede e un numero fisso di riferimento. Regola numero 4. Se l'offerta è legata a un prodotto firmato, però il prezzo è, come dire, sospetto, dovete contattare il customer service della firma. Inviategli il link dell'offerta, loro vi diranno con esattezza se quel prodotto è vero oppure falso. Regola numero 5. Pagate sempre con dei mezzi sicuri e tracciabili, non con ricariche o con bonifici, perché se poi vi arriva il pacco, almeno sapete come fare. Perché difendersi non soltanto è importante, ma è necessario, ragazzi, altrimenti finisce che ci mettiamo addosso scarpe, borse, vestiti che arrivano da posti come quelli che vedrete fra un po'. Siamo in Toscana, è luglio, sono le 3 del pomeriggio e fa un caldo atroce. La prima cosa che io e gli uomini della Guardia di Finanza troviamo nei capannoni dello Smannoro, alle porte di Firenze, è un pesce. Un merluzzo messo a dessiccare e divorato dalle mosche che ronzano nel caldo asfissiante del pomeriggio. Entriamo. Lo smarrimento sul volto degli operai che non sanno chi siamo, cosa vogliamo. Il nervosismo su quello del proprietario. Fuori il pesce vero. Dentro le borse di Balenciaga, false, prodotte dal laboratorio di pelletteria V. Il modello che i finanzieri cercano è quello della linea Classic, uno dei modelli più gettonati. Ne troviamo una parete intera, circa 200 pezzi. Tutti copiano tutti, perché ve la prendete con noi? Si lamenta la giovane figlia del titolare. Dove sono le targhette? Incalzano i finanzieri. Io non ne so nulla. Gli operai non sanno più che cosa fare. Quando capiscono che la giornata finisce qui, si buttano a dormire sopra i macchinari. Non chiudono occhio da giorni. È il loro momento. Salgo le scale. Ed ecco, i dormitori. Dormono qui, sopra la fabbrica, fra i topi, la sporcizia, avanzi di cibo sul pavimento, cucina incrostata, una puzza terrificante. In fondo alla stanza c'è una catasta di scatoloni con un'enorme scritta. made in Italy. Allo Smanoro non ho visto l'Italia, ho visto la fame, il terzo mondo, il finto lusso affidato alle mani dei disperati. 188 microimprese nello stesso magazzino, suddivise in tante cellule come in un favo. La Perigina però sta fuori, lontana, ha conti in Svizzera e società controllate ovunque. Qui dentro ci sono gli schiavi, uomini, donne, bambini, perfino un neonato che dorme in una culla piazzata fra collanti e macchine per cucire. Saltano fuori altri bei marchi, fibbie per cinture Hermès, portafogli Fendi, borse Vuitton. A chi erano destinate? Trovo la busta paga di un dipendente. 269,23 euro per un mese di lavoro. Ufficialmente 36 ore la settimana, poi chissà. In Toscana la maggioranza delle ditte di pelletteria è asiatica. Alcune sono in regola, la maggior parte no. La loro vita media è inferiore al termine minimo richiesto dal fisco per la prima dichiarazione dei redditi. Nascono, producono, muoiono, evadono le tasse. E chi le trova più? Nella successiva irruzione compaiono fuori le targhette, circa 400. Quei pezzettini di metallo sono il valore aggiunto dei falsi, il tocco di Remida. Applicandole, il piombo diventa oro, l'imitazione si fa contraffazione e il cerchio si chiude. Poi i falsari quella merce la vendono agli ingrossi e da qui arriva nei negozi. Eh sì, perché molte di quelle borse, ad esempio, non si fermano ai mercatini rionali o ai Vucumprà. Le acquistano negozianti senza scrupoli, che le mischiano alle originali, vendendole come tali e ottenendo guadagni enormi. I falsari applicano le targhette poco prima della spedizione per evitare il rischio di essere scoperti. Qualche ora dopo, la figlia di V non parla più. I finanzieri le hanno aperto il bagagliaio dell'auto contenente 6 campioni della Classic. La targhetta questa volta c'è. La repressione c'è. Ma non può bastare a fermare tutti questi traffici. Sarebbe come vuotare il mare con un secchiello. È impossibile. Tu sei sfinito. E il mare è sempre lì, ancora più invincibile, schiacciante, colmo d'acqua. Le nostre frontiere sono aperte. Chi gestisce la contraffazione è come un pesce che nuota in questo mare. Passa là dove le maglie della rete sono più larghe ed entra in porto. Così punta dritto al nord dell'Europa, dove arrivano via nave 6 prodotti contraffatti su 10. In Germania, Polonia, Olanda, Belgio. Da qui poi scendono verso l'Italia, stivati in camion o nelle auto. E allora? Come fai a bloccarli? Rimetti il filo spinato ai confini del Brennero? I paesi che importano di più sono anche quelli che sequestrano meno. Per forza. Non hanno niente da proteggere. Non hanno quel sistema di piccole e medie imprese, di lavoro diffuso, che è la forza della nostra economia. Il nostro unico futuro possibile. Infatti i paesi del nord Europa sono i primi a non volere il made in obbligatorio. Perché? Perché questo li costringerebbe a dire la verità a chi importa i loro prodotti, a dire che tutto proviene dal terzo mondo. Però anche i produttori italiani hanno le loro responsabilità. Un capo d'abbigliamento, un paio di scarpe, possono dirsi italiani, anche se solo le ultime fasi sono state realizzate in Italia. Quando compri un prodotto, che cosa ne sai? Niente. Da dove arriva? Come è stato realizzato? Con quali materiali? Nessuno ha interesse a informare troppo chi compra, perché è in queste pieghe che si generano i grandi profitti personali, ma anche le grandi perdite sociali, a cominciare da quella che ci ha reso tutti più poveri. La perdita del lavoro. Dopo l'agricoltura noi stiamo perdendo l'altra grande ricchezza che ci hanno lasciati i nostri padri. Eravamo i migliori artigiani del mondo. Siamo diventati dei finalizzatori di beni creati dall'altra parte del mondo, fingendo di essere noi i veri autori. È in queste pieghe che si genera l'imbroglio, ma anche la contraffazione. Perché spesso a mettere le etichette Made in Italy sui prodotti fatti in Asia, senza dichiararlo, sono proprio i nostri imprenditori. La repressione c'è, ma non può bastare. Le nostre dogane, la guardia di finanza, tutte le forze impegnate in questa guerra lo fanno perché ogni sequestro è un colpo inferto a chi vuole sputtanare il Made in Italy, a chi genera ricchezza fuori togliendo lavoro dentro. 13.000 sequestri in 3 anni, 31,7 milioni di beni contraffatti sottratti al mercato. È un lavoro immenso quello che è stato fatto, ma non dipende più soltanto da loro, dipende soprattutto da noi. Questa guerra finirà quando noi per primi avremo la consapevolezza che comprando i falsi ci facciamo del male da soli. Creiamo le condizioni affinché persone a noi vicine perderanno un lavoro. Le aziende saranno costrette a chiudere. I negozianti che rispettano le regole saranno soppiantati da chi non le rispetta. 104.000 posti di lavoro a tempo pieno all'anno, 7,2 miliardi di fatturato. Sono quelli che abbiamo perduto a causa della contraffazione. Il sistema economico malato sta contagiando quello sano, lo sta distruggendo. 100 anni di lotte per conquistare i nostri diritti stanno svanendo. In cambio di che? In cambio di paccottiglia che sembra vera, ma non lo è. Questa guerra non la si vince aumentando le multe per chi compra. Questa guerra finirà quando noi la smetteremo di comprare roba che non ha alcun valore, quando sapremo scegliere anche e soprattutto con la testa, quando premieremo ciò che è bello ma allo stesso tempo giusto, quando ci chiederemo: ma chi ci guadagna davvero? Quel poveretto che vende per strada o quello che lo tiene alla catena? Voleva fare il falegname, è finito a vendere borse d'inverno in una città della Lombardia, d'estate sulla spiaggia di Jesolo. Guadagna, quando gli va bene, 50 euro al giorno, quando gli va male neanche un centesimo. Fatì, lo chiameremo così, è arrivato in Italia nel 2009. 6 settimane di viaggio dal Senegal alla Libia, attraversando il deserto tra Niger e Algeria. 7 giorni a piedi senza mai mangiare e con 2 litri d'acqua a disposizione. Tra compagni di viaggio che mi cadevano attorno come mosche, non ho avuto paura di fare la stessa fine. Quando decidi di partire non puoi aver paura di morire. Quando decidi di partire sai che può succedere, sei già un morto che cammina. $400 pagati per arrivare in Libia, altri 700 per attraversare il Mediterraneo, raccolti a Tripoli in 3 mesi facendo ciò che sapevo fare, il falegname. La barca che si è capovolta durante la traversata e alcuni dei miei compagni sono sprofondati sott'acqua. Io sono stato fortunato, io ce l'ho fatta. La fortuna però in Italia mi ha abbandonato. Il lavoro che mi ha procurato mio fratello è durato solo 3 mesi, poi l'azienda ha chiuso. Ho un permesso di soggiorno in tasca, ma i soldi non ci sono. Devo pagare l'affitto, 250 euro al mese, e devo mangiare, altri 25 euro a settimana. Così Fatì va a Milano, in via Sarpi, dai cinesi che gli vendono le borse, dai 10 ai 15 euro a seconda del modello. Te le vende a 30, se insisti scende a 25. Ma di quelle contraffatte Fatì non ne vuole sapere. E mi spiega il perché. Il mondo dei Bukumpra si distingue fra chi sta qui e chi oltrepassa questa linea di confine. I primi hanno il permesso di soggiorno, i secondi no. E allora sono i più disperati fra i disperati. Non hanno niente da perdere, neanche il prezioso documento. Oltrepassano la linea e diventano rappresentanti del falso, manovalanza delle mafie. Ne ho conosciuti tanti, ma loro non ti diranno nulla. Chi lo fa non ama parlarne, chi lo fa prende il treno, va a Napoli, dove ci sono le fabbriche e i distributori del falso. Nelle fabbriche i Vucumpra non ci entrano, eh? Nessuno di loro sa dove si trovano, ma i distributori li trovi facilmente. Stanno vicino alla stazione di Piazza Garibaldi, nei depositi al piano interrato. Cambiano sede da un giorno all'altro per non essere individuati dalla polizia. Le borse costano 40-50 euro l'una e sono identiche alle originali. Hanno un mercato perché alla gente piacciono. Il business che rende però finisce qui. Da qui in poi inizia la fame. Un Vucumpra non ti può vendere una borsa falsa più di 100 euro. Spesso devi accontentarsi di 80. E con quei 30 euro di ricarico lui ci paga a malapena le spese, perché i rischi sono altissimi, talmente alti che la camorra non si sognerebbe mai di gestirne direttamente la vendita. Ci sono i controlli e i sequestri, che significano mancati introiti. Ci sono i grossisti di zona, che sì, ti anticipano la merce, però poi quando la vendi, tu li devi pagare subito, perché quelli hanno il coltello facile e si tengono anche una quota importante dell'incasso. Fatì di queste storie non ne vuole sapere. Ma fosse un italiano lui di roba falsa non ne comprerebbe mai. Perché sa in quali tasche vanno a finire i soldi. E allora? E allora fino a che non ci sarà lavoro, meglio fare rifornimento di merce anonima dai cinesi. Che ne so, fare scorta di accendini, sperando che qualcuno ne abbia bisogno. Se poi non ne avesse, anche la carità di un euro è una buona cosa per lui, che con 25 euro ci mangia una settimana. Se glielo regali quell'euro, non lo offendi. L'Italia mi piace, ma non voglio rimanere qui per sempre. Sto perdendo il mio tempo. Sogno di fare il falegname per qualche anno, raccogliere un po' di risparmi e poi tornare in Senegal, comprarmi un terreno, un trattore e coltivarlo. Sogno una vita normale, con una moglie, dei bambini. Lontano da questa miseria, che non era ciò che mi aspettavo quando mi sono messo in viaggio. E sono stato fortunato perché sono arrivato a destinazione. I soldi non li facciamo noi, ma loro li fanno grazie a noi. Così mi dice Fatì, mentre ci salutiamo alle porte della sua città. Questa sera niente borse da vendere. Questa sera Fatì inizia il suo lavoro di guardiano notturno in un'azienda che ha subito troppi furti negli ultimi tempi e che è corso al riparo. Lui le borse le ha vendute perché non voleva, per sopravvivere, essere costretto a rubare. L'economia è come la società. È fatta di vittime e di carnefici. Le prime si aiutano, i secondi si combattono. Questo è lo spettacolo Tutto quello che sto per dirvi è falso, contraffazione, mafie, filiera del dolore, con Tiziana Di Masi, testo di Andrea Guolo, regia di Maurizio Cardillo. Con Tiziana Di Masi per parlare del suo spettacolo Tutto quello che sto per dirvi è falso. Tiziana, ben trovata. Ben trovati voi, grazie, buongiorno. Come nasce questo lavoro? Nasce nel 2013, quindi è passato un bel po' di tempo. Nasce perché io mi sono sempre occupata con il mio teatro civile di raccontare problematiche che nessuno aveva affrontato, cose, come dire, quotidiane che io sentivo urgenti, e la tematica del falso non ne aveva mai parlato nessuno, e invece, come dire, è un tema che purtroppo ci riguarda tutti, e quindi ho deciso assieme al mio autore nel 2013 di scrivere uno spettacolo che parlasse del falso e di tutto il mondo infinito e variegato della contraffazione. La contraffazione, per quello che riguarda nello specifico la salute pubblica proprio. La salute pubblica, perché scoprendo un po' alla volta quanto è ampio il mondo della contraffazione, appunto mi sono trovata a parlare di contraffazione agroalimentare, di contraffazione di falso della moda, ma non solo, anche, che ne so, i pezzi di ricambio delle auto, i farmaci. Poi gira tantissimo anche online, soprattutto poi in questi ultimi anni, la contraffazione. Quindi c'è, come dire, un intero mondo falso, molto spesso noi non ce ne rendiamo conto, e oppure semmai lo acquistiamo consapevolmente perché pensiamo, no, di risparmiare. Invece il falso ha dei danni enormi. Come hai deciso di muoverti? parlare di falso è una cosa un po' difficile. Quando appunto nel 2013 debuttammo al Teatro Goldoni di Venezia, in una serata, mi ricordo, bellissima, con un sacco di autorità e istituzioni, diciamo che per molto tempo il falso è stato, come dire, un po' appannaggio di alcune elite, diciamo, che avevano deciso di affrontare questo tema. Poi nel tempo, appunto nel corso di 7 anni, siamo arrivati a 250 repliche, è diventato proprio uno spettacolo che ho voluto far diventare popolare. Cioè, in che senso? Quando si parla di falso, si deve far capire che ciascuno di noi può contribuire o meno a fermare questa enorme piaga della contraffazione. Perché se ciascuno di noi si interroga ogni volta che acquista un prodotto falso, allora i miliardi che la criminalità organizzata fa con il mercato del falso si possono, come dire, come minimo ridurre, e soprattutto versare tutto quel denaro nelle casse dello Stato e invece di darlo alla criminalità. Ma poi ho insistito anche molto nel tempo sull'importanza e la gravità dell'acquisto del falso per la nostra salute, perché se infatti in un momento provocatorio dello spettacolo io lo dico: se non ve ne frega del lavoro, se non ve ne frega della criminalità organizzata, almeno abbiate cura della vostra salute. Comprare un prodotto falso, esempio le scarpe, parlo di scarpe che ho acquistato in un mercatino, le ho pagate 3 euro, quelle scarpe sono state analizzate e sono scarpe con una quantità di, si chiama cromo esavalente, che è una sostanza tossico-nociva. Insomma, ti metti quelle scarpe ai piedi e ti vengono le bolle, ti vengono 3.000 altre irritazioni. Quindi è un problema per la nostra salute. Fino a che non capiamo questo e continuiamo a dire costa poco, lo compro, e non guardiamo tutti gli aspetti che l'acquisto del falso comporta, diciamo che facciamo prima di tutto male a noi stessi. Uno dei danni maggiormente rilevanti probabilmente è quello della contraffazione alimentare, che è anche il più rischioso. Non solo è più rischioso, ma tra l'altro è anche tra i più diffusi. La contraffazione agroalimentare, soprattutto poi in questi ultimi anni, è esplosa. E infatti io parlo di cifre che sono veramente impressionanti. 50 i clan che sono ufficialmente coinvolti nel business della contraffazione delle frodi alimentari. E quindi l'olio contraffatto, il vino, ad esempio i clan hanno investito moltissimo in questi ultimi anni. Infatti c'è proprio un rapporto, che tra l'altro un rapporto specifico che viene steso tutti gli anni anche da Coldiretti, con cui io poi ho collaborato, con l'osservatorio scientifico di Coldiretti, un rapporto sulle agromasse che ci fa capire come non sia più, come dire, un qualcosa di ilare, qualcosa che, su cui si possa passare sopra. Pensiamo ai clan che prendono del vino di pessima qualità e poi lo mettono dentro delle bottiglie di champagne famose e vendono bottiglie da 2 euro al litro a 50, 100 e più euro. Sono dei danni enormi all'economia legale, sono dei danni enormi alla nostra salute e alla nostra identità, all'autentico made in Italy, ma soprattutto alla nostra credibilità di un vino, come può essere di un olio, come, che ne so, la mozzarella di bufala campana, che invece viene contraffatta e viene fatta con latte romeno o addirittura con latte di animali malati, quindi senza nessun controllo. Questo, la sicurezza alimentare non può certamente passare da un prodotto contraffatto, questo deve essere molto chiaro. Tutte le volte noi andiamo a buttare soldi e andiamo a farci del male perché non curiamo la nostra salute, oltre, ripeto, al fatto che sono tutti mercati gestiti dalla criminalità organizzata. E l'altro aspetto legato alla contraffazione alimentare, per certi versi, è quella legata ai farmaci. Quella legata ai farmaci, e tra l'altro, visto che siamo appunto proprio nel periodo adesso della fase 2, io ho parlato anche nel corso del mio TG del volontariato, che appunto è un progetto che ho ideato durante questa fase di quarantena, cioè raccontare storie di volontari di impegno civile in questo periodo, e ad esempio ho parlato con un'associazione, Ammar, la quale mi diceva che, non essendoci disponibili in questo momento farmaci importanti, purtroppo il rischio era che molte persone li acquistassero vie, canali illegali e si imbattessero in farmaci contraffatti. È un problema davvero urgente per la nostra salute, ma di tutti, perché tutti, tanto prima o poi saremo malati se continuiamo a mangiare roba e a respirare aria malata, insomma. E il problema dei farmaci contraffatti che girano online è purtroppo anche questo un mercato in espansione. Purtroppo parliamo di una realtà dal 2013 al 2020, quindi in questi 7 anni in cui ho portato avanti lo spettacolo, che non è andata sempre più ad accrescere le proprie entrate e anche, come dire, la preoccupazione verso questo mercato. E questo purtroppo è accaduto perché le persone non hanno dato importanza. La contraffazione è tra i reati meno puniti e anche la sensibilità delle persone ora sta iniziando a crescere. Ma io ricordo ancora che all'inizio, quando appunto feci tutto quello che sto per dire di falso, tanti furono le persone, tante anche le domande, perché io mi occupavo tanto di contraffazione, che era un argomento così poco, così marginale, così poco travolgente, ecco. E complice proprio questa presunta accettabilità sociale della contraffazione, siamo arrivati ad avere 104.000 posti di lavoro a tempo pieno all'anno che noi perdiamo a causa della contraffazione, lavoro che si perde, salute che si perde e soprattutto casse dello Stato che si svuotano per imprenditori che non hanno più la possibilità di lavorare a causa della concorrenza sleale. Certo che se un prodotto che viene messo sopra il mercato a un prezzo concorrenziale, ma perché è di scarsissima qualità, è certo che, come dire, si va ad agganciare poi una realtà dove molti purtroppo, come dire, scelgono il prodotto che costa meno, ma semmai ignari che è un prodotto avvelenato, autenticamente avvelenato. In attesa di riapertura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e più in generale sulla tua attività? Allora, mi potete trovare sia sulla mia pagina Facebook, dove appunto carico tutto ciò che ruota intorno, che è Tiziana Di Masi, e sulla mia pagina Instagram, e poi ovviamente c'è il mio sito, che è in via di aggiornamento, perché i siti degli artisti sono sempre appunto un calderone in mezzo di cose, tizianadimasi.it, e poi c'è anche un sito specifico che abbiamo creato nel 2013 per Tutto Falso, che è tuttofalso.org, in cui racconto un po' la storia di questo spettacolo, gli ambiti in cui si è sviluppato, tutte le realtà che poi mi sono state vicine in questi 7 anni. Tiziana, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, a prestissimo. Con Claudia Della Seta, autrice dell'adattamento e co-regista della versione audio dello spettacolo La Casa degli Spiriti di Isabella Allende, un capitolo ogni settimana attraverso una piattaforma di videoconferenza, poi messo a disposizione dalla Biblioteca Civica e dal Teatro delle Donne di Calenzano. Claudia, ben trovata. A voi, ben trovati. Raccontaci di questo progetto. Allora, La Casa degli Spiriti è nata nel 2003 in Israele al Teatro Arabo Ebraico di Jaffa, che era, ed è tuttora, insomma, un teatro che promuoveva il dialogo durante le guerre attraverso il teatro. Quindi fu creato in un momento di grande emergenza, cioè noi facevamo le prove sotto le bombe, e durante una guerra, durante la seconda intifada. E quindi, come dire, è abituata la Casa degli Spiriti a momenti di emergenza. La scrivemmo apposta, la diressi con Glenda Sevalt, perché rappresentava un po' il nostro mondo latino. Glenda era dall'Uruguay, io sono italiana, vivevamo in Israele, insomma. Quindi è nata così, e così è andata sempre avanti. E ogni tanto si ripresenta, cioè la rifacciamo con lo stesso cast di attori italiani e israeliani, arabi ed ebrei, cioè c'era questa triade, per parlare alla fine, vedete, insomma, in realtà quando sei in guerra non lo sai se domani una bomba scoppia sul sedere, no? Veramente non lo sai. Come oggi non sappiamo se domani potremmo ammalarci di coronavirus, sono in un momento dell'emergenza, però è una dichiarazione di fede e di speranza nel futuro, La Casa degli Spiriti, come lo scrisse Isabella Allende durante il suo esilio dopo il colpo di Stato in Cile. In momenti di totale confusione noi diciamo io vivo e scelgo la vita piuttosto che la morte. E la morte è tanto,